get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte, bentornate, ben ritrovate. Finalmente riprendono le trasmissioni del martedì femminista e lesbico autogestito. Voi direte, ma è giovedì, ma tanto già ve l'hanno spiegato le compagne che ci hanno precedute. In realtà le femministe, appunto, del martedì femminista e lesbico autogestito riprendono le trasmissioni di giovedì. Quindi continueremo a chiamarci il martedì per la gioia di tutte, ma andremo in onda il giovedì, perché ogni tanto un po' di follia fa bene. Dunque, noi siamo ovviamente il coordinamento lesbiche romane, vi ricordate di noi perché ci siamo sentite in estate, quindi insomma ci sentiamo in realtà dal lontano 1997, quindi forse avete anche, come dire, siete forse anche un po' stanchi di sentirci, speriamo di no. Stasera riprendiamo le nostre trasmissioni e appunto cambierà soltanto il giorno, mentre proseguiremo ovviamente a collaborare con le compagne con le quali abbiamo lavorato in grande sintonia per tutti questi anni. Stasera riapriamo in bellezza, abbiamo qui due ospiti graditissime, si tratta del duo No Choice, sono Federica Tuzzi e, scusate la pronuncia, Merel von Dijk, giusto? Merel von Dijk, c'ero quasi riuscita. Benissimo, stasera loro ci parleranno di un progetto molto interessante che stanno portando avanti e io però direi che insomma ce ne potranno parlare più diffusamente loro, che lo conoscono meglio di noi ovviamente. E quindi niente, io aprirei i microfoni e intanto vi passo Lucilla. Sì, perché intanto loro ci parleranno estesamente del loro progetto, ma siccome il progetto prevede anche qualcosa di particolare, e cioè loro, come dire, le donne, le lesbiche, le femministe se la cantano e se la suonano alle volte, e loro se la cantano e se la suonano, sentite un po'. Poi tu ti spacchi, donna che sorridi a quell'inutile coglione che non merita, non merita tutta la tua passione. Donna che ogni tanto vai a cena con le amiche, ma non vedi, non ti accorgi di quanto sono fiche. Tu che le tue amiche le cerchi per parlare, perché non le scegli anche per scopare? Tu che le tue amiche le cerchi per parlare, perché non le scegli anche per scopare? Mollai maschi, mollai maschi, frustrazioni tu intaschi, mollai maschi, mollai maschi, hai contato i loro fiaschi. Donna, dammi retta, l'uomo è sopravvalutato, nella storia lui ha vinto perché tu l'hai aiutato, e se adesso di ribelli ti fa anche un occhio nero, e se ti dice male finisce al cimitero. Donna che ti meriti di essere una diva, diventa anche tu una lesbica tardiva. Donna che ti dicono sei troppo impegnativa, diventa per favore una lesbica tardiva. Donna, tu hai molta intelligenza emotiva, diventa dunque una lesbica tardiva. Maschi, mollai maschi, frustrazioni tu intaschi, mollai maschi, mollai maschi, hai contato i loro fiaschi. Donna, perché accetti che ti chiamino zitella? Guardati, ti prego, tu sei così bella, anche senza labbra che somigliano a canotti, fregatene, fregatene dei loro occhi. Mollai maschi, guarda noi, riprenditi la vita e poi fai quello che vuoi. Mollai maschi, scegli noi, noi siamo la risposta a tutti i problemi tuoi. Sappiamo baciare, sappiamo toccare il punto G, lo sappiamo trovare. Sappiamo baciare, sappiamo toccare il punto G, lo sappiamo trovare. i gelosi e i fuggiaschi, ma vai maschi, ma vai maschi, siciliani o bergamaschi. Donna, tu non sei una lesbica nativa, diventa dunque una lesbica tardiva. Donna, tu non sei una lesbica nativa, diventa dunque una lesbica tardiva. Donna, fai un salto, usa l'inventiva, immagina un futuro da lesbica tardiva. Donna, ti dico una cosa esclusiva, diventa ora una lesbica tardiva. Allora, avete sentito il contenuto della canzone, quindi ancora maggiormente c'è da dire se la cantano e se la suonano, ce la cantiamo e ce la suoniamo, perché siamo assolutamente d'accordo e impazzite per questo pezzo. Appena l'abbiamo ascoltato abbiamo deciso che era il caso di fare una trasmissione con queste due, diciamo, novelle chansonnière. Allora, detto questo, andiamo subito con la prima domanda. E la domanda è rivolta a tutte e due, voi poi decidete come parlare. Noi abbiamo anche la traduzione in simultanea questa sera in studio. Stiamo veramente fortunate, devo dire. Ecco, allora, la prima domanda è: chi siete? Quindi presentatevi voi, perché noi forse non vi abbiamo presentato sufficientemente, a sufficienza. Di cosa vi occupate? Quindi perché, quindi, vi occupate per esempio di questo tipo di canzoni? Poi ne sentiremo delle altre. E se fate parte di un gruppo, quindi insomma un po' raccontateci un po' la vostra storia, il vostro incontro, com'è stato. Comincio io, che sono Federica Tuzzi. Sì, grazie Federica, vai. Ciao. Io scrivo, ho sempre scritto, ho passato gli ultimi 3 anni della mia vita a scrivere il mio nuovo romanzo e non l'ha pubblicato nessuno. No, dico nessuno. E quindi all'inizio mi sono un po' depressa e poi ho deciso di reagire e quindi mi sono detta: ma no, ma io voglio fare delle cose un po' più, che non devo chiedere niente a nessuno, che non devo andare proprio a questuare dagli editori che mi fanno i discorsi di questi temi che non si trattano più tanto oggi, forse devi stare più in quest'altra linea, in questa... E quindi volevo fare una cosa senza chiedere niente a nessuno. In realtà ho sempre desiderato fare parte di una band. Ok, e quindi lo possiamo ricordare che tu hai scritto già un romanzo che invece hanno pubblicato, molto bello, che tra l'altro l'ho trovato molto interessante, molto coinvolgente, e che tra l'altro sei una filmmaker, insomma, diciamo alcune cose magari anche di questo, ci facciamo un po' di pubblicità. Facciamo pubblicità, sì, ho fatto tanti documentari, questa serie TV sul Cammino di Santiago insieme a Cristina Vuolo, sì, mi sono sempre occupata di scrittura, con le immagini, con le parole. E ultimamente mi è venuta voglia di farlo in una maniera più performativa, più veloce, più agile, portarli in giro nei locali proprio per divertirci. E poi, come ripeto, volevo fare sempre parte di una band, ma non so cantare, non so suonare, niente. E quindi questa idea invece di suonare le parole mi è sembrata molto bella. E poi è arrivata Mero, che invece sa cantare benissimo, sa suonare benissimo, e quindi mi sono agganciata alla scia. E allora, dici qualcosa tu? Sì, provo in italiano. E altrimenti ti tradurremo, così come sappiamo tradurre noi. Sì, provo e poi vediamo. Io sono venuta 2 anni fa, mi sa, a Roma. E sono di Olanda e lì sono stata sempre cantatrice con un gruppo di teatro, ho molto esperienza di teatro. Poi sono stata un po' in viaggio anche in America, un gruppo in America, e per l'amore sono arrivata qua a Roma. Io ho detto, perché ho incontrato Federica nel vacanza un po' prima di arrivare a Roma. E nel primo momento di incontrarci c'era direttamente un grande gioia. e ho sempre detto, Federica, ma quando tu vuoi fare una cosa teatrale possiamo anche fare insieme. Vado in inglese adesso. So I was looking for a way to build a life in Rome, because I just had a love life, but I wanted to do music, do other things, build something. And è arrivata a Roma, l'amore non basta, voleva fare anche qualcos'altro oltre ad amare. Vabbè, che devo essere proprio letterale nella traduzione, posso una sintesi, no? Yeah, so I just, and I knew, like, with her, from the first second I saw her once on holiday in Lesbos, we always had a lot of fun, so... Ci siamo divertite una cifra a Lesbos insieme. So, and then, yeah, we just started to rehearse and to see what would happen, and there we are today. Sì, abbiamo cominciato le prove, effettivamente tutto è cominciato sul divano, queste serate invernali che... che sei attanagliato da un dilemma. Io sono attanagliata da un dilemma l'inverno, soprattutto proprio mi esco o sto a casa. Sto a casa. E questo è un grande dilemma. Un grande dilemma. È un dilemma che ci attraversa tutte, comunque. Tutte le sere. Purtroppo sì. Sì, quasi ve lo direi. Volete sentire? Sì, sì, dicelo. Sì, dicelo. Dicelo. Volete sentire? Dici il dilemma. Un pezzetto di dilemma. Un pezzettino. Un pezzetto di dilemma. Vai. Esco o non esco? Questo è il problema. Se sia più nobile sopportare la noia di certe serate, oppure una coperta, un tè, un libro da iniziare, morire, dormire, forse sognare. Ah, ma c'è l'ostacolo, perché in quel sogno di pace il pensiero degli inviti che possano arrivare, mentre sull'iPhone i messaggi continuano a trillare, mi rende esitante. Esco o sto a casa? Non lo dirò tutto. Grazie, molto interessante. Senti, questo pezzo che ci hai così mirabilmente declamato, dici, è il padre di tutti i dilemmi. È il padre di tutti i dilemmi. Eravamo sul divano, come al solito. To be or not to be. To be or not to be. Esatto. Questo l'ho capito pure io. Eravamo sul divano, esco sto a casa, erano mesi che andavamo avanti, esco sto a casa, e lei mi ha detto, dovresti scrivere di questo tuo dilemma, e quindi ho scritto esco sto a casa, ho scoperto la forma duale della mente, cioè in pratica io ho avuto la stessa illuminazione del Buddha, la mente duale, l'ho capito, e quindi ho lasciato che la mia mente duale si esprimesse attraverso vari dilemmi importantissimi, esistenziali. Mangio, digiuno, una cosa fondamentale che ci attanaglia tutti i giorni. Io sono appena uscita da una pasticceria e quindi adesso ho mangiato, però ieri ho digiunato. Muoio o mi ammazzo? Ti lascio o ti sposo? Mi tatuo o non mi tatuo? Cose grosse, insomma. Sì, io penso che siano i veri problemi esistenziali e che ci attanagliano più o meno a tutte. Ma allora, veniamo ancora a un'altra domanda. Quindi, rispetto alla canzone che noi abbiamo ascoltato, Lesbica tardiva, com'è nata l'idea? Yeah, this is interesting, because Federica came before summer, she came with this text and she said, this is gonna be our summer hit! And I said, come on, this is a really old-fashioned idea. Allora, io sono andata da Mero con questa canzone dicendo, dai che questa sarà una hit pazzesca, e Mero mi ha detto, no, ma è super old fashion, è roba antica, è degli anni Ottanta, ma che è? Qua però dobbiamo fare una precisazione, lei è Mero olandese. È olandese, io ogni tanto arrivo da lei con l'avanguardia, sì. E lei l'ha superata da 30 anni. I was already married and divorced with a woman, I mean, what are we talking about? A 28 anni, era già sposata e divorziata con una donna, quindi gli facevano un baffo tutte queste storie, le unioni civili, le cose, lesbica o non lesbica, siamo tutti integrati, siamo avanti. Quali sono i problemi in Olanda, scusa? Ah... we don't have them, no, we don't have problems. Quindi in Olanda non ci sono problemi. Sono un popolo fortunato. Va bene, va benissimo. We have the problems with Calvinism. We don't know how to enjoy life, really. We only know how to work. To work or not to work, I think that would be the main problem. Ah, questo è interessante. Yeah. Da noi è no work. No, this is a Dutch problem. To work or to enjoy. To enjoy life, it's in Holland it's really hard. In pratica il problema degli olandesi è che sono pallosi. Ah, ecco, questa è la traduzione, assolutamente. Una libera traduzione. Cioè, con molta, va bene. So this però is the end, I think, of our band, Federica. I think you just announced the breakup, did you? No, I was only translating. Ah. Ha tradotto, okay. Federica ha tradotto. To be short. Ah, right. Ha tradotto rapidamente, ah, va bene. Ha accorciato i tempi. Esatto. Comunque, il problema in Italia, il dilemma è: non lavoro oppure non lavoro? Ed è così più o meno. Però vabbè, ci sono arrivate varie eco rispetto alla vostra canzone. E da quello che abbiamo capito è che da qualche parte questa canzone è come se fosse stata una provocazione, cioè è come se aveste lanciato una provocazione rispetto alla lesbica tardiva. Ne avevate l'intenzione? Era questa l'idea? What I remember, like what was the last thing that convinced me to really work on this song is when this really horrible thing happened here in Rome about this woman being burned or something. What happened? And then I thought, it is actually important to do something about. It's not really about being a lesbian. It's really about being clear that you can have the relationship that you want and that you don't have to settle for something less, for a very unequal relationship. Doesn't matter what gender you are. Ecco, magari se ci traduci qualcosa, Federica. La traduzione seria stavolta, perché, sì, stavolta il discorso è importante. Ha detto che non è tanto una questione di essere lesbica in sé, quanto il fatto di avere una relazione paritaria, che la decisione di fare lesbica tardiva all'inizio era seria, quando ha detto che mi ha detto di no, le sembrava una canzone troppo militante e questa forma della militanza, venendo lei dall'Olanda, non la rappresentava in pieno. Quando poi ha cominciato a sentire tutte queste storiacce di donne ammazzate, la ragazza bruciata, tutte queste storie che hanno fatto molta impressione su di lei, soprattutto per il riverbero mediatico e per le soluzioni inesistenti, nonché orrende, offensive da parte della giustizia, perché l'orrore può accadere, ma almeno una tutela legale. Invece accorgersi che c'era un milieu culturale che favoriva tutto questo l'ha scioccata, e quindi ha deciso di lanciare questa provocazione della lesbica tardiva, che ovviamente si riferisce, e qua mi aggancio io, alla violenza di gender, però per me aveva a che fare innanzitutto con un ribaltamento di prospettiva. Per me aveva a che fare innanzitutto con un ribaltamento di prospettiva, cioè fino adesso noi abbiamo lottato chiedendo diritti per noi, in qualche maniera come chiedendo di essere ammesse nella società. E ok, ognuno di noi ha fatto il suo percorso. Ho 43 anni, guardo le altre, le etero, e dico: ma forse noi dovremmo lottare per loro? Cioè, stanno peggio di noi. Questa è un'ulteriore provocazione, però la mia idea era. Vedo succedere cose con le mie amiche etero che per me sono agghiaccianti. Le sento dire cose tipo: non sono più nel catalogo. Donne bellissime che non sono più in catalogo. Che vuol dire che non sono più in catalogo? Allora se non sei più nel catalogo, guarda, c'è un altro mondo, se vuoi. A noi ci piaci, sei favolosa. Era l'idea di portare innanzitutto la scelta lesbica. Non sei nativa? Oh, e diventa tardiva. Non è che bisognava nascerci. Cioè, certe scelte si fanno per tanti motivi. Anche solo decidere che a un certo punto vuoi cambiare vita, ricominciare da capo e farti la tua seconda adolescenza, la scoperta del mondo nuovo, è un buon motivo per fare una cosa del genere. Perché no? Sì, noi del resto lo diciamo sempre. Noi siamo lesbiche tardone ormai. Lo dicevamo anche prima di venire qui in diretta, però per la verità questo discorso del guadagnare più donne possibile alla causa è una cosa che noi discutiamo da almeno 20 anni, quindi l'idea che ci possa essere una scelta tardiva, oppure insomma maggiormente consapevole andando anche avanti con l'età, è una cosa che ci attraversa molto, ci fa molto specchio. Quindi quando abbiamo sentito questa canzone così ben articolata, veramente ci ha fatto un grande piacere, anche per l'ironia con la quale appunto l'avete portata. Crediamo che sia un ottimo lavoro e veramente potrebbe diventare un inno. Lo speriamo davvero. Allora, Interrompiamo. La cosa carina è che tante etero scrivono dicendo sono sposata felicemente, però ci sto facendo un pensierino, non ci avevo mai pensato, non so se è l'argomentazione portata da Mero, quella su tutte le cose che noi sappiamo fare, sappiamo baciare eccetera eccetera, e comunque fanno pensierini, già fare dei pensierini, no? Non si comincia così a scuola, i pensierini. E certo, come dice sempre la mia grandissima amica Giovanna, una non è lesbica finché non lo è, per cui... Allora andiamo con un altro pezzo musicale e poi proseguiremo con questa splendida intervista. Grazie. Sto vivendo un momento un po' speciale. Mi sento bene, mi sento anche male. Sto cambiando la pelle del mio serpente e non voglio che addosso non mi resti niente. Ho cercato allora un bravo tatuatore, gli ho spiegato la mia storia per quasi 2 ore, ma non è mica facile trovare un tatuaggio. Bisogna valutare il tipo di messaggio: tribale, banale, maori, cacciatori. Se non scegli bene sono dolori. Mi tatuo o non mi tatuo? Mi tatuo o non mi tatuo? Ti tatui? Mi tatuo? Mi tatui tutti i tatui? Voglio farmi un tattoo polinesiano o un po' zulu. Voglio farmi un tattoo, un puro puro, un diu in du. Alla fine il tatuatore mi ha mandata via, non aveva una laurea in psicologia, eppure io gli ho dato un sacco di elementi e gliel'ho spiegati con parole ardenti. Vorrei esprimere un concetto emotivo, ma vorrei che fosse anche intellettivo. Un simbolo arcano, un mandala pagano, un om, un ganesh, l'hai pronto un flash, una rondine in volo, una sirena sul molo, una gallina con dentro l'uovo. Insomma vorrei dire qualcosa di nuovo. Mi tatuo o non mi tatuo? Mi tatuo o non mi tatuo? Ti tatui? Mi tatuo? Ti tatui tutti i tatui? Voglio farmi un tattoo solo linea pure rosso e blu. Voglio farmi un tattoo con labbro elettrico come bambù. Ho iniziato da poco una storia importante che mi ha dato un'idea piuttosto affascinante. Un disegno fiorito come anello intorno al dito. Sul fiore potrei scrivere il nome di chi amo, ma se poi mi lascia come la mettiamo? Perché il tatuaggio è così indelebile, non si potrebbe fare con il chiostro flebile. Mi tatuo o non mi tatuo? Un simbolo arcano. Mi tatuo o non mi tatuo? Un mandala pagano. Mi tatuo o non mi tatuo? Rondine in volo. Mi tatuo o non mi tatuo? Mi tatuo non mi tatuo, mi tatuo non mi tatuo, ti tatui, mi tatuo, ti tatui, ti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui, tutti tatui. E allora abbiamo ascoltato Mi tatuo, questo è il titolo di questo pezzo. Mi tatuo o non mi tatuo? E quindi fa parte anche questa dei famosi dilemmi di cui sopra. Esatto, mentre invece la lesbica tardiva non è un dilemma. Lesbica tardiva è, dobbiamo dirlo, posso dirlo assolutamente, così assolutamente. Ufficialmente in radio, è un mantra di liberazione. Capito, è una missione quella che noi abbiamo. Una strategia. Sì, sì, sì, è un mantra politico, un mantra di liberazione. Ne abbiamo fatto un altro che presenteremo per la prima volta il 19 adesso all'Hula Hoop al Pigneto, e faremo una serata in cui presenteremo questo nuovo mantra di liberazione, che è un mantra che parla della coppia. Se volete vi posso dire, certo, il tema. Praticamente il ritornello fa così, vi dico solo le parole: sai che la coppia non è più di moda, ha fatto il suo tempo come il whisky and soda. Perfetto. Sai che la coppia non è più di moda, ha fatto il suo tempo come il whisky and soda. Basta scenate a tutte le ore, basta gelosia, questo non è amore. Basta litigi, basta spiegazioni, basta con tutte le rotture di coglioni. Abbiamo avuto un'anteprima, quindi mi raccomando, tutte da... Lula Hop il 19 in serata, ovviamente, sì. Perfetto. Allora, dunque, torniamo, facciamo un piccolo passo indietro, torniamo alla lesbica tardiva, che a noi ci piace tanto. La lesbica tardone, gli piace la lesbica tardiva. Esatto. E, abbiamo detto, si è sviluppato una specie di dibattito, insomma, intorno a questa canzone. E, al di là dell'adesione dell'etero. Al di là dell'adesione delle lesbiche, dell'etero, che ci fanno sempre un gran piacere. Qual è stata, diciamo, la discussione che più si è accesa intorno a questo testo? Che tipo di rimando avete avuto? Quali sono state le impressioni, i commenti che avete ricevuto rispetto alla lesbica tardiva? Well, we received actually some audio of people singing the chorus in the office. That was very nice. Delle donne in ufficio la cantavano, delle donne etero, e ci è arrivato questo audio fantastico di queste donne, oltretutto delle redattrici, giornaliste. Fantastico. Perché lo vogliamo ricordare, come l'avete, diciamo, fatta circolare questa canzone? Beh, questo è buffo, perché io sono completamente negata per la promozione, quindi quello che ho fatto, per me è stato un grande sforzo, è stato prendere la canzone e metterla su YouTube, creare questo canale, e nel giro di pochissimi giorni c'erano migliaia di visualizzazioni, persone che scrivevano, che io dividerei un po' così. Ci sono i maschi pochissimi, nel senso proprio forse 4 o 5 ci hanno detto brave. E questo mi fa pensare che abbiamo colto l'insegno, comunque. Esatto, va bene. Poi le etero sono abbastanza impazzite, te l'ho detto, il pensierino è stato instillato. E quindi missione compiuta. Poi le lesbiche, invece, la questione è interessante, perché ci sono lesbiche che l'hanno presa un po' come un inno e quindi ci si sono riconosciute, la cantano, la fanno sentire alle amiche. Altre lesbiche che si sono preoccupate: ma se mo tutte ste etero ci diventano lesbiche, con la crisi che consegue di solito al passaggio, certo, di scelta sessuale, con questa zero cultura lesbica che hanno costruito nel frattempo, nonché un'appartenenza al mondo, noi ci ritroviamo il mondo invaso da queste nuove lesbiche, è un problema. Oltretutto bisogna anche calcolare che c'è questa figura di lesbica, che non so se ha già un'eziologia, gli americani forse gliel'avranno data, che danno sempre nomi a tutti, sempre attratta dalla etero, per cui capisci, cioè, è una dialettica interna alla comunità lesbica. Ce ne sono molte, non so esattamente appunto che nome gli abbiamo dato, ma effettivamente moltissime compagne lesbiche, forse non sono compagne lesbiche, hanno questa spinta. Io l'ho sempre considerata appunto un voler guadagnare qualcun'altra alla causa, però in realtà sospetto che ci siano sotto altre motivazioni. Forse dei dilemmi? Forse ci sono dei dilemmi. Gender questions. Queer ed ora, insomma, ci sono molte cose che si possono dire rispetto a questa cosa. Io non so se c'hai qualche altro pezzetto in quel tuo bellissimo iPad che magari ci vuoi regalare qui a noi e alle ascoltatrici che ci stanno seguendo da casa. Sì, perché questo ci piace, cioè se c'hai piace. Altri pezzi, perché sono molto interessanti. Ci piace molto, ci piace anche. E ci piace anche però farvi un'altra domanda, che è questa. Ma ve l'aspettavate? Queste reazioni sia di plauso che di magari critica da qualche parte, vi aspettavate comunque questa grande adesione, tutte queste visualizzazioni, per esempio, questo successo, insomma? No, me not, because still part of me was convinced that it was sort of old fashioned what we were doing. So then we got a lot of responses, and then I thought this was a confirmation, like, okay, we're doing something that is good to talk about, that is like dialogue in society that's alive right now. All'inizio non se lo aspettava, perché era ancora convinta che stavamo facendo qualcosa di old fashion. Poi ha visto le reazioni, allora ha capito che l'Italia stava messa male. No, non ha detto questo. E questo è plagio, cioè non lo so come si dice quando forzi qualcuno. calunnia. Ha detto che allora si è convinta che sì, stavamo facendo qualcosa di importante, perché l'Italia sta messa così. Federica, non ci buttiamo troppo giù. In fondo è bene percorrere tutti i periodi storici e anche, no, come dire, incarnarli bene. Noi stiamo incarnando un periodo storico che loro hanno già incarnato, e quindi magari si possono anche ricordare delle cose le olandesi rispetto a noi. Dici, ma hai visto? È così. Certo, nel 2016 sarebbe meglio essere uscite dal Cenozoico, ma purtroppo ancora ci siamo dentro con tutti i piedi, e che possiamo fare? No, but I mean I'm joking all the time about Holland being so advanced. I mean, part of that is true, but there are still also in Holland the same sort of discrimination or the same jokes, men always walking up to you in the bar like, ah, so then you never had a real good man, or can I come home with you with a lesbian couple? I mean, it's, I do believe it's really universal too. Succede anche in Olanda che dei maschi si avvicinano e dicono, ah, ma tu quindi non stai mai con un vero uomo, se vuoi vengo con te, ti faccio scoprire. Quindi capita anche in Olanda. Ha voluto spezzare una freccia. I think feminism and discrimination is an will forever be an ongoing struggle or a cause that always will need to be active. I don't think this will be ever finished. Questa è una profezia. Il femminismo avrà sempre una ragione d'essere. Ah sì. Yeah, no, I think it needs to be active. Yeah. Purtroppo è una profezia, ma è pure una iattura, questa è la tragedia. Però io vorrei tornare un attimo al discorso che faceva Lucilla sulle epoche storiche, mi interessa, perché io, questo è un fatto personale, no? Io mi sono sempre sentita di essere arrivata tardi, cioè mi hanno raccontato di questo mondo in cui ci si credeva, no? In questi, gli anni 70, in cui veramente si credeva di poter cambiare le cose, ci si infiammava per ideali, l'amore possibile, il sistema, ancora si diceva la parola sistema contro cui combattere. E invece io sono stata adolescente nell'ondata dopo, quella proprio delle firme, o sei fico o sei sfigato, cioè completamente sì, diverso, sì. No? E io ci sto a cavalcare le epoche storiche, è come se adesso mi sto dicendo, vabbè, vediamo chi è con noi, no? Nel senso, non è che io penso che veramente la rivoluzione, però un po', vediamo chi c'ha ancora voglia di uscire un po', appunto, di dire, ma possiamo mettere in discussione la coppia, le stesse unioni civili che vanno bene come diritti, però poi interroghiamoci su cosa veramente fondiamo le nostre esistenze. Cioè, c'è qualcuno che non è completamente integrato? Questa era un po' la scommessa. C'è qualcuna che non è completamente integrata? Beh, io penso di sì, ce ne sono più di una. Il problema è che io questa cosa, noi abbiamo fatto insieme, no? Un pezzo di strada, Federica, se ti ricordi, il World Pride del 2000, e lì ci siamo conosciute, abbiamo anche, no? Ci siamo sperimentate. Allora la nostra valutazione, qui andiamo sul troppo serio rispetto a questa trasmissione, però la buttiamo là come cosa. La cosa che noi dicemmo allora è che il World Pride del 2000 è stato il massimo dell'omologazione possibile, dove da lì è venuta fuori il soggetto unico che, guarda caso, era l'omosessuale e non la lesbica, la trans, il trans, il gay, il bisessuale, eccetera eccetera. È venuta fuori la figura unica, il soggetto unico che voleva la famiglia e i diritti civili. E lì abbiamo veramente fatto un passo indietro spaventoso qua, noi. Questa è stata la nostra valutazione allora, e che oggi ci sentiamo, penso, di riconfermare. Okay. Sì, per alcuni aspetti la possiamo riconfermare. È vero che appunto l'ondata di omologazione è cominciata, diciamo, si è visualizzata in una maniera più concreta. Esatto, non penso che è lì che lì no. Però ha avuto lo sdoganamento totale. Sì, in realtà, insomma, la situazione era già cominciata. A voglia, un po' come prima. No? A voglia. Però vabbè, effettivamente questo è un discorso ampio e purtroppo per certi versi anche dolente. Però mi piaceva questa cosa che tu hai detto di essere arrivata in ritardo sulle cose, perché anche io, che ho più o meno la tua età, forse un paio d'anni di più, e anche io ho sempre avuto questa idea di essere arrivata tardi sulle cose. Quindi questo mi permette di dire che stasera abbiamo tirato fuori una terza tipologia, dopo la lesbica tardiva e la lesbica tardona, la lesbica ritardataria, che insomma, che qui direi che non è... Direi che ormai ce le abbiamo tutte queste lesbiche, si insinuano ovunque, si palesano in varie modalità e in vari ruoli, in come vari dire. Ruoli, sì sì, va bene. Però io so che Federica stava intrallazzando con il suo iPad. Leggici un altro dilemma, magari Federica. Ci legge un dilemma o E poi andiamo a un altro pezzo musicale. Sì. Va bene, dopo il dilemma. Va bene. Buddha dice: essere felici significa sentirsi a proprio agio. Eppure ci sono persone che adorano il disagio. Diciamolo, il mondo si divide in persone sane e persone che sono sostanzialmente malsane. Le persone sane mangiano bene, fanno molto sport ed evitano le pene. Le altre invece hanno sempre dei drammi, si intossicano molto, sono piene di affanni. Cioè non puoi capire, ma è successo un casino! E ti raccontano in che modo si sentono vittime del destino. Mi piacerebbe poter dire che sto dall'altra parte, ma temo di aver sviluppato una particolare arte, quella di sentirmi profondamente a mio agio solo nelle situazioni di disagio. Per esempio, mettiamo che incontro una brava ragazza, dolce, comprensiva, per niente pazza. Secondo voi c'è speranza che io mi innamoro? Niente. Nisba, sarebbe un disdoro. Mi piacciono quelle che mi fanno sentire aggravata, sempre un po' insicura, inadeguata, quelle situazioni che non ti rilassi mai, che devi stare attento a ciò che dici, se no sono guai. Se poi il tutto è condito da molti accori, allora è molto facile che io mi innamori. Basta, non è possibile, stare con te è diventato invivibile. Me la prendo con lei, ma io so che la colpa di questo naufragio è soltanto mia, è il mio amore per il disagio. Agio o disagio? Agio o disagio, questo sì, un dilemma malvagio. Fantastica. Brava Federica, se posso, molto bello. Se posso dire, posso dirla questa cosa, per me è un grandissimo complimento, quindi non è... Mi sembri Patrizia Cavalli. Ma in che senso? Fisicamente? No, fisicamente no, perché insomma, voglio dire, avete una certa... C'è un gap, c'è un, diciamo, gap generazionale. Accentuato. Cioè, dici proprio le cose che scrivo? Questa ironia. Modo, questa ironia. Veramente? Sì, proprio sì. Quello che scrivo? Somiglia a quello che scrive lei? Sono no, contentissima! Che cosa? Sono contentissima! Ah. Sì, no, veramente, mi ricorda molto Patrizia Cavalli e per me è un grandissimo complimento. Saluto Patrizia, chissà se ci ascolta, non credo però. Ciao Patrizia! Allora, io non lo so se lo diciamo ora o dopo l'intermezzo nostro, andiamo prima col pezzo musicale e poi lo diciamo, o lo dico ora. La fonica che è Stefania mi fa cenno di sì. Voi avete capito sì che in radio c'è Rosina, The Voice numero uno del CLR, e poi io che sono Lucilla, una voce qualsiasi. Allora vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Alcune indicazioni per contattarci: in radio fino alle 22 del giovedì e non più del martedì, allo 06 49 17 50, con una mail a contatti@clrbp.it, o visitando la nostra pagina Facebook CLR, due punti, clr.roma. Il nostro sito è www.clrbp.it. Per finire, con una lettera a CLR presso Cassa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Un po' di antichità non guasta. E andiamo col pezzo musicale. Pinna e Calamaio. Si vede che Lucilla non ha questa grande predisposizione alla tecnologia. Internet. Io, retaggio culturale, colpa di Dio, nel libro della Genesi creò il cielo e poi la terra, la luce, le acque e dopo la guerra, fu quando tolse Eva dalla costola di Adamo, e questa distinzione tutti noi subiamo, sei maschio? Sei maschio? Sei femmina? Sei femmina? Eppure qualcuno si chiede, maschio o femmina? O o sono una strega, femmina o maschio, a te che te ne frega. Un giorno un vecchietto mi chiese il mio nome, gli dissi Federica, penso fosse il cognome. Oppure una volta arrivò un signore, ho scommesso con mia moglie, togli il dubbio per favore. Successe anche con sordomuti, provarono a chiarirlo con suoni acuti. Maschio o femmina? Ti sposo o ti lascio? Ti lascio o ti sposo? Vorrei parlartene, ma non oso. Scrivo messaggi infiniti sul mio cellulare in cui ti spiego i motivi per cui ti dovrei lasciare. Ci penso, mi struggo e poi arriva il bello. All'improvviso, di colpo, li cancello. Ti scrivo: amore mio, come stai? Mi sei mancata oggi, lo sai? E la cosa più assurda è che io non scherzavo. Dopo averti lasciata, ti amavo. Hold me like your possession, keep me under your lock and key. Hold me like your possession, temporarily. Ti voglio, non ti voglio. Più vicina, più lontana. Appassionata, intelligente, sexy, accudente. Vieni qui, vai lì, dimmi qualche no, dimmi sempre sì. Temporarily. Volevo parlarne con quella donna, quella con cui sono stata, ma l'ho trovata insieme alla sua nuova fidanzata. Bella. Molto più giovane di quanto ero io. E pare che addirittura scopano da Dio. Allora non era la menopausa. Allora ero solo io la causa. Natura o cultura? Cultura o natura? Da dove viene la fregatura? Che sarà mai un pezzetto di formaggio, un po' di lasagna, un piccolo assaggio? Ma che dici? Che cosa fai? Se mangi queste cose non dimagrirai mai. Dovresti seguire un regime alimentare, studiare le cose che puoi mangiare. Ma che dieta seguire? Chi è che ha ragione? La macrobiotica o la bionutrizione? Più proteine o più carboidrati? E poi la questione: vanno dissociati? Ma la nanna si sa, gli antidi tuoi brucerà. Ma la nanna si sa, gli antidi tuoi brucerà. E allora, rieccoci nuovamente in diretta. Questo brano che avete ascoltato, Aurora, è diciamo un po' la summa del lavoro di Federica e Mere. Mere. Niente, non ci riesco, proprio l'olandese non è la mia lingua. E adesso invece, per allietarci ancora di più in questa bella serata, le ragazze qui, le nostre ospiti, ci propongono, ditelo direttamente voi, che cosa ci fate? Beh, visto che l'olandese ti è piaciuto tanto, possiamo chiedere a Meho di cantare un pochino in olandese, per esempio. Certo. Omdat hij de volgende dag morgen mocht, sliep de soldaat vol lust. Hij lag op haar en daardoor zag zij de sterren boven haar kust. Toen viel er uit de avondlucht atoomraketten schroot. De meeste bommen kwamen te laat, want iedereen was al dood. Nog heerst er winterkou, nachten zijn lang en grauw, sneeuw dekt de straat. Zolang wij leven, kind, ondanks de winterwind, is het niet zo kwaad. In una fredda giornata d'inverno, alcuni porcospini cominciarono a stringersi sempre più vicini. Non volendo infatti morire assiderati, pensarono che così si sarebbero scaldati. Ben presto però premendosi come sardine, sentirono il dolore delle proprie spine. Quando poi il bisogno di scaldarsi li portò nuovamente insieme, tornarono a soffrire per le stesse pene. Venivano così sballottolati avanti e indietro fra due mali, entrambi crudeli e fondamentali. Da lontano il gelo e da vicino il contropelo. Questo è un pezzo del dilemma vicino o lontano, è un dilemma, capisci, un dilemma gravissimo. Tu hai bisogno di calore, vai vicino, poi come ti avvicini ti pungi, poi però da lontano soffri, poi ti riavvicini e poi trovi una giusta misura, forse. Questo è quello che dice Schopenhauer. Esatto. Il dilemma dei porcospini di Schopenhauer. Scusate, io vorrei dire due parole sulla... Intanto complimenti perché ha una voce fantastica anche senza supporto musicale. Thank you. Prego. Soprattutto mi è piaciuto il pezzo della canzone in cui diceva che chiedeva il mio numero di telefono per invitarmi a cena. Ah sì. Che cosa dice questa canzone? Beh, così, insomma. Ma questa canzone ha una storia del una fantasia del terza guerra mondiale, sì, è una it's a poem actually from a German poet, Wolf Biermann, who wrote music during the Cold War about this fantasy of the world ending, and it's very much about being alone in the cold, being together with the last person there and trying to find the warmth. So I already wrote this song before with this poem, and then it just really stuck really together with the piece that Federica wrote independently. Sì, qualcuno traduca? Ha detto che è una poesia tedesca che è stata scritta durante il periodo della guerra fredda e ha tutta questa immagine di terza guerra mondiale in cui c'è una persona che sopravvive cercando nel freddo, nel gelo, e cerca di scaldarsi con l'unica altra persona che è rimasta, e è una canzone che lei aveva già scritto, già musicato, e che si combinava perfettamente con il mio testo dei porcospini. Quindi ci siamo detti, immagina di quest'ultima persona che rimane sulla faccia della terra, ne trova un'altra, si avvicinano, si muore di freddo, sono soli e sono porcospini, manco si possono abbracciare. Ok. Quindi avevo capito male, proprio. No, l'indirizzo non te l'ha proprio chiesto. L'olandese proprio, niente. Ormai lo devo rispolverare. Lo devi rispolverare. Allora, ritorniamo un attimo, un passo indietro, e alla canzone e quindi anche al titolo, no, della nostra trasmissione di questa sera, che è Una lesbica tardiva, appunto. E quindi con la vostra canzone ponete, oltre la possibilità della scelta lesbica, che non mi sembra una cosa di poco conto, anzi molto importante, quindi anche tardivamente lo si può fare, no? Ma nella canzone affrontate anche argomenti molto seri come la violenza di genere. Volete dire qualcosa a questo proposito? Vi va di spezzare una freccia? Non dico una lancia perché mi sembra già troppo. È un argomento di cui è difficile parlare, io mi sento un po' imbarazzata perché poi ogni volta che accadono fatti di cronaca ci si scatena in questi commenti, e per me l'idea era proprio di parlarne in un modo diverso, cioè comunque di dire alle donne semplicemente una cosa: non è detto che voi dobbiate tollerare non solo proprio essere ammazzate, ma anche essere denigrate o chiamate come se niente fosse, zitella, perché zitella. Quindi non è detto che certe cose si debbano accettare, e se comincia a passare l'idea che non è necessario accettarle, che ci sono delle alternative, magari anche impensate, noi abbiamo proposto la più estrema, però ci sono alternative, forse la questione della violenza viene presa un po' prima, un po' all'origine. Dopodiché io mi sono sentita anche quasi imbarazzata in tanti momenti, perché ho amici etero che si sono sentiti offesi dalla canzone. Un amico, per esempio, a cui tengo molto, mi ha detto: sai, quando per tutto il tempo nella canzone all'inizio io ero con voi, ho pensato che era importante sollevare questi dibattiti, ma quando poi arrivi al ritornello e dite molla i maschi, e là ci sto anch'io, cioè stai mollando anche me con la mia voglia di mettermi in discussione. Io penso che le provocazioni politiche si fanno così, cioè non è importante che, è chiaro che non è che tutti i maschi, certo, usano violenza sulle donne, però è proprio quella figura del maschio che va mollata, va mollata anche per i maschi, proprio bisogna e soprattutto magari i maschi che si sentono colpiti, no, perché non si sentono di appartenere a quel genere di maschilità, sarebbe il caso che invece di recriminare nei nostri confronti provassero a cambiare al loro interno e quindi portare contenuti diversi all'interno del mondo maschile. Cioè, ancora la madre che ti deve coccolare, cioè dico ancora chi ti deve per forza accogliere, sì, siamo amiche, siamo amici, però non è non necessariamente io devo tener conto solo della tua istanza perché tu ti senta rappresentato, eccetera eccetera, no? Insomma, questa è poi la richiesta che spesso fanno gli uomini. E comunque le eredità culturali contano tanto quanto quelle personali, certo, nel senso che tu magari sei portatore di desideri diversi, di ideali diversi, però noi viviamo all'interno di una cultura che si è strutturata storicamente e di questa sei responsabile, come ognuno di noi è responsabile, ci portiamo il bello e il brutto della nostra storia. Penso a un ragazzo che conoscevo tempo fa, che tempo fa mi disse che quando di notte si ritrova a camminare su un marciapiede dietro a una donna, cambia marciapiede, perché si immagina che la donna si possa spaventare da sola di notte sentendo che qualcuno è alle sue spalle. Ecco, questo secondo me è un atteggiamento, cioè non importa che tu sai di essere in buona fede, mettiti nei panni di chi sta camminando di notte, mettiti nei panni di chi vive in una cultura che se ti succede qualcosa in finale te la sei cercata, no? Andavi in giro vestita così. Certo, certo, certo, e questo ha a che vedere col rapporto empatico, andremo molto lontano. Bene, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, quindi io direi proprio sulla scorta di questa di quest'ultima cosa che abbiamo detto, rinnoviamo ovviamente a tutte l'invito a partecipare alla manifestazione del 26 novembre contro la violenza maschile sulle donne. Anche voi ci avete detto sarete presenti sul carro di tuba, mi sembra di aver capito. Yes, for sure we are there. Benissimo, quindi avremo il piacere di incontrarci anche in piazza. A questo punto purtroppo ci saluteremo, ma vogliamo mandare ancora una volta in onda la vostra bella canzone, La lesbica tardiva. E se volete aggiungere qualcosa, avete oltre a rinnovare l'invito per il 19. Certamente per la vostra performance a Lula 19 Hop. A Lula Hop ci sarà anche questo nuovo mantra di liberazione politico contro la coppia, e noi siamo perfettamente d'accordo da tutti alla fine. Noi siamo lì, a parte la coppia di gatte di Lucilla, certo, ma quelle sono le figlie dell'altra specie, certo. le figlie di pelo. But it's our job to put everything in question, no? That's why we make dilemmi, so. È il nostro lavoro quello di mettere tutto in discussione, per questo facciamo dilemmi, niente certezze, tantissimi dubbi, apriamo questioni. Allora viva il dilemma, ringraziamo Mero e Federica, grazie a Lucilla, grazie a Stefania, grazie pure a me, già che ci sto. E a Rosina, lo dico io. Già che ci sto, e allora noi ci sentiremo per la nostra prossima calamità. Fra un mese esattamente, e cioè noi siamo state la prima calamità dell'apertura stagionale. Siete una calamità gigantesca, perché qui la calamità c'hanno tutte delle proporzioni fantastiche, bibliche, e quindi di nuovo lesbica tardiva, grazie a voi per essere state con noi e buona serata. Grazie. A tutte. Con i tacchi su quei san pietrini, prima o poi tutti spacchi. Donna che sorridi a quell'inutile coglione che non merita tutta la tua passione. Donna che ogni tanto vai a cena con le amiche, ma non vedi, non ti accorgi di quanto sono fiche. Tu che le tue amiche le cerchi per parlare, perché non le scegli anche per scopare? Tu che le tue amiche le cerchi per parlare, perché non le scegli anche per scopare? Mollai maschi, maschi, frustrazioni tu in taschi, mollai maschi, mollai maschi, hai contato i loro fiaschi.